Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. Questa nostra ultima puntata dell'anno, come di consueto, è in gran parte dedicata al bilancio di previsione della Regione, una manovra approvata in questi giorni da 13,7 miliardi di euro, di cui 9,6 per la sanità. Restano ferme le tasse per il nono anno consecutivo e la sanità si conferma la voce principale con uno stanziamento di 9 miliardi di euro, di cui 8 milioni e mezzo per l'esenzione dal ticket prime visite per le famiglie numerose. L'Assemblea dell'Emilia Romagna approva la manovra di bilancio della Regione per il 2024. Salgono a 40 milioni di euro per far viaggiare gratuitamente pendolari e studenti sui mezzi pubblici, mentre sono previsti altri 40 milioni di euro per l'abbattimento delle rette dei nidi e mantenere gratuiti quelli nei comuni montani e delle aree interne. Aumenta di mezzo milione di euro anche il fondo per la non autosufficienza. Luca Sabatini, del Partito Democratico, è il relatore di maggioranza del provvedimento. Un bilancio che prova a dare una risposta emiliana romagnola a un trend economico che oggi vede nell'ultimo trimestre del 2023 anche dei dati rispetto alle previsioni in calo anche dal punto di vista di tutto il paese. Un bilancio che guarda al futuro e ai giovani, prevedendo 37 milioni di euro per la copertura totale delle borse di studio universitarie. Per le infrastrutture la Regione prevede 800 milioni di investimenti. Un altro capitolo riguarda gli alloggi. 10 milioni di euro andranno per il recupero dell'edilizia scolastica, mentre 1 milione servirà per reperire abitazioni per le donne che hanno subito violenze. Per l'opposizione, però, questa manovra è la fotocopia di quella degli anni precedenti ed è stata fatta in maniera frettolosa. Sentiamo il commento del relatore di minoranza, Stefano Bargi, della Lega. Per la prima volta non sentiamo parlare dell'Emilia Romagna che primeggia, ma sentiamo citare spesso e volentieri quello che avviene a Roma. Di fatto si prosegue sulle stesse politiche infarcite di green e di genere che a nostro avviso non vanno nella direzione di rispondere ai bisogni dell'Emilia Romagna. Dibattito acceso in aula. La sanità, che assorbe la maggior parte delle risorse del bilancio, è al centro di molte osservazioni. Per il Partito Democratico, la capogruppo Marcella Zappaterra evidenzia gli investimenti per il servizio sanitario pubblico. Sulla sanità noi abbiamo sempre creduto nel servizio sanitario pubblico universale. Stiamo dedicando molto del bilancio, considerato che mancano ancora i trasferimenti del governo legati alla pandemia. E sui servizi sociali lo testimonia il mezzo miliardo in più che abbiamo messo sul fondo regionale per la non autosufficienza, che era già il più alto a livello nazionale. Critiche da Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia. Un bilancio in realtà senza coraggio che qualifica il mandato Bonaccini. Sulla sanità niente di nuovo, permangono le voci di debito, la giunta punta molto su questa riforma dell'emergenza urgenza, sui CAU, noi non siamo d'accordo, abbiamo visto i fatti di questi ultimi giorni, parlano chiaro. Mentre dalla maggioranza Giulia Pigoni di Italia Viva giudica positivi gli investimenti per lavoro e imprese, si dice soddisfatta per l'approvazione di un emendamento a sua firma a sostegno dell'educazione sportiva, la Lega boccia la manovra, ma il capogruppo Matteo Rancan esprime anche soddisfazione per aver incassato l'approvazione di alcune proposte. Sentiamo prima Pigoni e poi Rancan. 1.900.000 euro per lavoro e imprese e da parte di Italia Viva grande soddisfazione anche per l'approvazione di un emendamento che porterà 250.000 euro nel prossimo anno sul sostegno a tutto quello che è lotta contro l'abbandono sportivo per i giovani e giovanissimi e gli adolescenti. Quello che noi abbiamo cercato di fare però non è stato solo criticare ma anche proporre. Sono stati approvati dei nostri ordini del giorno relativi allo sport, dove potranno andare ad accedere a fondi i comuni che già hanno presentato bandi, e soprattutto ordini del giorno per mettere in sicurezza le strade di montagna, investire nelle piscine comunali anche di quei comuni più disagiati della montagna. Da maggioranza e opposizione si puntualizzano, a seconda dei punti di vista, luci e ombre di un bilancio complesso, che sconta le conseguenze del Covid sul comparto sanitario e il nuovo fronte della ricostruzione del post-alluvione. Federico Amico, di Emilia Romagna Coraggiosa, rimarca il potenziamento degli stanziamenti per il welfare. Il reparto del sociale, diciamo, dal Fondo Regionale Non Autosufficienza alla legge del terzo settore, esce da questo bilancio potenziato e sostenuto con ingenti risorse. Credo che sia un dato positivo sicuramente un dato politicamente rilevante. Mentre per Valentina Castaldini di Forza Italia il bilancio suscita preoccupazione. Questo bilancio lascia un'eredità pesante, un buco di bilancio legato alla sanità consistente, e una situazione legata all'alluvione, al post-alluvione che vede pochissimi fondi e quindi una forte preoccupazione per chi andrà a governare. Soddisfazione da Silvia Zamboni di Europa Verde per una manovra che riserva risorse a due leggi promosse dal suo stesso gruppo in tema ambientale. Positivo il fatto che sono stati raddoppiati i fondi per la legge per la promozione dei distretti del biologico. Poi c'è uno stanziamento per un altro mio progetto di legge, così come era mia la legge per i distretti del biologico, per diffondere la vendita dei prodotti sfusi alla spina. E anche Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, contraria alla manovra, accoglie positivamente l'impegno nei confronti di alcune proposte del suo gruppo. Devo riconoscere un impegno ad accogliere anche le proposte del Movimento 5 Stelle, quali per esempio il finanziamento della legge regionale sul sovrano indebitamento. È stato dato seguito a un ordine del giorno dell'ultimo bilancio per quanto riguarda il sostegno ai centri di formazione pubblici e accolto una proposta per quanto riguarda il finanziamento dei progetti, gli interventi assistiti con animali, quindi la cosiddetta pet therapy. Dall'opposizione Marco Mastacchi di Rete Civica insiste a segnalare problemi sul fronte sanitario. La sanità è il nostro focus principale. In particolare io ho evidenziato alcune criticità che sono il payback, che rischia di mettere in difficoltà innanzitutto le aziende che devono subire questo provvedimento in modo assolutamente iniquo, ma dall'altra parte rischia anche di aprire una ulteriore voragine nel bilancio della regione. Mentre Stefania Bondavalli della lista Bonaccini esprime il suo gradimento per un bilancio che lascia le tasse invariate. Mi piace però ricordare di questo bilancio in modo particolare l'attenzione che rivolgiamo nei confronti delle persone più fragili. Aumentiamo ulteriormente le risorse messe sul Fondo regionale per la non autosufficienza. Tutto questo lo facciamo senza chiedere un soldo in più agli emiliano-romagnoli che per il nono anno consecutivo vedranno le tasse non aumentare. In Emilia-Romagna sono oltre 600 gli alberi monumentali censiti. 102 di questi sono anche piante monumentali d'Italia. Assieme ai boschi vetusti, questi esemplari potranno godere di nuove misure di conservazione e salvaguardia, grazie alla legge regionale approvata a maggioranza nei giorni scorsi dall'Assemblea legislativa. Mirella Dalfiume del Partito Democratico sottolinea i principali aspetti della norma. Andiamo ad ampliare le tutele per gli alberi monumentali e i boschi vetusti, adeguiamo le sanzioni, mettiamo a disposizione per quanto riguarda il 2023 100.000 euro per la tutela degli alberi e dei boschi e per il 2024-2025 saranno a bilancio 235.000 euro. L'Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni in Italia ad approvare negli anni 70 una legge che prevedeva la particolare tutela degli esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale. Ora la nuova legge istituisce anche l'elenco degli alberi monumentali e la rete dei boschi vetusti regionali. Voto di astensione dalla Lega, sentiamo perché da Michele Facci. Introduce dei criteri ulteriori rispetto alla legge nazionale che a nostro avviso creano confusione anziché semplificare e questo è il motivo per il quale il nostro voto è stato di astensione. Cambiamo argomento. Negli ultimi 500 anni non era mai capitato un evento così. In una sola giornata sono caduti tra i 150 e i 170 mm di acqua. Ci sono state oltre 65.000 frane, interessando un territorio di 72 km quadrati in 115 comuni. Sono stati coinvolti più di 30 edifici e quasi 2.000 infrastrutture. Sentiamo Stefano Caliandro, del Partito Democratico e presidente della Commissione Territorio. Quello che ci consegna questa commissione di studio di specialisti è la necessità di investire in infrastrutture forestali, cioè in contenimento dell'uso del suolo, in rigenerazione dell'uso del suolo a vocazione naturalistica. Per Giancarlo Tagliaferri, ora che le opere per prevenire gli interventi estremi sono state annunciate, bisogna però intervenire concretamente. Non abbiamo visto nessun tipo di realizzazione, questo è il vero problema, quindi occorre un cambio di passo molto deciso da parte della Giunta dell'Emilia-Romagna. Siamo al termine della nostra puntata, per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. A nome di tutta la redazione, tanti auguri di buon anno e buone feste. Assemblea On Air.